Quindi che la vivo bene, sì. Sì. Io sto trasmettendo con una lupo magnifica, ma scusa, una lupo magnifica, con una delta lupo, allora. Ah, già, va bene, invece con una magnifica. Delta lupo, non magnifica, delta lupo vuol dire angolo, antenna filare a triangolo. Ah, la delta lupo, capito. Ehi, vabbè, ho visto il messaggio dopo che ero al telefono, capito, stavo parlando con mia sorella. Ho rimesso la mano, ma come ti arrivo, bene o male? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda, sono, vabbè, l'ho appena acceso l'apparecchio. Aspetta. Vediamo un po' di... Adesso sono quasi 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ti copio 9, 5 ambiti positivi, se a con questa antenna qua. Allora già funziona bene l'apparecchio. Funziona benissimo. Vabbè, c'avevo il palo che era rugginoso, ho dovuto passargli la carta vetrata, capito, avanti ieri. L'antenna l'ho sistemata, è perfetta, sembra che stia andando bene, mi pilota benissimo il coso, il tempo. Anche perché senza massa questi apparecchi qui tendono a scendere di potenza, che vanno un po' in protezione, sia questa anche per il lineare lo faceva, lo speed della CTE, a posto di avere 150 watt ne eravamo 70 e meno. Infatti io non lo volevo rischiare, capito? Adesso è invece a posto. Il palo è lucido e il capetto che gli ho inserito nuovo, da 1,5 sembra che vada benissimo. Stazionare 1,1, la bobina l'ho rimessa nel modo come era, poi ho preso e gli ho messo la vernice, quella spray sintetica sotto bianca, quindi non si avvicinisce mai la fine tanto, la possibilità che sia vulcanizzata, questo quella è perfetta. Sì, va bene, va bene. No, io sto trasmettendo con il Superstar e il coso, per starne su tre parti e mezzo di portante bianca e sette modulati, ho detto, ho la testa lungo, un'antenna di 11 metri di filo accordata solo quando vado a modulare qua in aereo, ma sto uscendo con poco, per essere con pochi watt è un'antenna invisibile a noi, perché sul tetto ed è invisibile, non la noti, non la noti niente, col filo elettrico da 1,5 l'ho fatto, poi se lo fai io a vedere. Sto cercando di capire, di dare. Questa qua è un po' compromesso per chi non vuole far vedere antenne sul tetto, capisci? Quindi fai un triangolo così in un palo, è anche mezzo inclinata pure, mezzo coricata. Ma va bene, mi va bene, non lo complico. La sto testando e se ti arrivo il segnale 8 a te di lì, va alla grande. Sono contento, almeno sono sistemata bene, già me l'ho pensata da solo, figurati, tu senti, sono contento, l'ho ritrovata da solo, mi ho approfittato che c'erano 30 gradi fuori, ragazzi, avanti di sera, sono contento, 30 gradi proprio piano piano, ho visto che il vento non ce n'era, ho approfittato, ho trovato, c'è un'infinata vento, l'ho abitata, eccetera, eccetera, è perfetto. Provo ad andare in FM a vedere come mi ascolti. Sì, guarda un po'. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova in FM a vedere. E qua sul fondo scala. Mi ascolti in FM? Sul fondo scala, dove sono? Oh, c'è un po' di QRM qua, non ho capito perché cazzo, boh. Torna l'M, torna. Cazzo di QRM che c'ho in FM, fuori di testa. Io non ho QRM. Sempre sotto controllo, tra 1 e 1, sempre 1 e 1, ma in tutta la 27, in tutta la 27, ma dimmi una cosa, la radio è buona, è forte, va bene? No, non ti ho capito adesso, se cosa va bene? Ho detto la radio è forte, va bene? Sì, vanno bene, li hanno tentati tutti i variali adesso, ciao. Tutti e 8 li ho messi, ne mancavano 2, ho recuperato quello che mancava e più ne messo variare di Gran Premi, cioè di Gran Premi quelle di modello vecchio in alluminio, li ho incastrato, va bene, e gli ho messo la vite. Sì, ma non mi stai copiando? No. Cioè vabbè, com'è lo sta usando il coso? L'HF? Perché sto provando questa antenna, aspetta un attimo dove trovo l'HF da qui. E prova un po' con l'HF a vedere. Sì, prova radio, 1, 2, 3, sì, prova radio. Mi copi Antone? 9 più 10, modulazione 5. È positivo, fa un passaggio e ti dico il segnale con la Grazioli, che qua c'ho la Grazioli collegata, aspetta un secondo. E prova. Aspetta un secondino. E prova, 1, 2, 3. Allora, fammi un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ragazzi, dove sei 9 più 20? Eh? 9 più 20, tondo. Già va bene, allora, perfetto. Un bicio l'antenna, sono contento. Marco, guarda, adesso sta lavorando bene la parecchio. Positivo, no, ti copio bene, senza problemi. 9, 9, 20, la radio è che c'hai, che devi un po' regolare l'amplificazione, mio Antone, è la radio. Devo abbassarla o devo sollevare l'amplificazione? No, non è fortissima con l'amplificazione, la verità, c'hai il segnale, però la radio, cioè per avere il segnale così la radio deve essere un pochino più spinta, mio Antone. Aspetta, 1, 2, 3, ora guarda, adesso è aumentato qualcosa? Sì, ha aumentato, però boh, non lo so, forse sei troppo vicino al microfono, ma comunque dai, già va bene, abbassalo appena e si ha forza. Ora. 1, 2, 3, no che lo faccio così, aspetta. Ecco qua, guarda un po', adesso dovrebbe essere una bella radio. Bravissimo, adesso è una bella radio. Forse stai spingendo troppo di watt, mi Antone, forse stai pompando troppo di watt, va un po' a saturare la... Però va bene, con volta prima va bene, ha migliorato molto, lasciala così. Avevo appena acceso l'apparecchio, capito? Secondo me ne stavo dando 10, già lo sai che quando la accendi dentro dai 10, 15, poi mano a mano sale fino a 50, evidentemente non fa più che altro. Quando sollevi il watt, metti al 50 subito, tende un pochettino a strappare. Poi basta che scenda appena e una volta che l'apparecchio è in regime, con 50 watt non fa più quell'effetto. È positivo, no, va bene Antone, non ci sono problemi, già è fatto un bel lavoro. Vabbè, l'antenna col piano di massa con il radiale è sempre migliore, non c'è, dico, la mezz'onda, quello, quell'altro, però dai, e vedere un attimino l'amperaggio, aspetta. Perfetto, perfetto. No, io mi guardo, sono sempre con... Stavo provando quell'antenna, Antonio, che l'ho messa nel superstar perché... Volevo provare una... Volevo provarla questa delta loop, ma vanno bene. Tu non te ne fai, non eri pulito, Antonio? No, ce l'avevo... I pulli ce l'avevo prima, la verità. Avevo fatto uno per i 40 e 45. Poi il vicino di casa... ci è arrivato con la mano e ho usato la forbice perché sono avvisato davanti alla, come si chiama, alla finestra di casa sua, me l'ha tagliato sia una parte che dall'altra, hai capito? E quindi hai detto che gli ha di un di poro. Allora ho fatto una cosa migliore, avevo qua 5 degree di gap, mi sono dall'antenna del primo canale, mi avevo fatto una specie di una direttiva a due limiti, avevo fatto, e usavo quella agganciata a un rotore di quelli di satellitari, capito? E la giravo così, la giravo, e funzionava benissimo, stazionaria 1-1, perfetta era. Sì, va bene, Antonio, cosa pretendi? Perché sono ignoranti. Allora, perché non si è tagliato le dita invece di arrivare all'isolatore? Maledetti schifosi. Vabbè, dai. Le soddisfazioni erano quelle soddisfazioni, quindi lascia di fare. Va bene. Antonio, io devo mollare un secondino, dai, una decina di minuti, poi riprendo, sono di nuovo qua, se ti faccio chiamata a momento, se ci sei ci facciamo una chiacchierata, intanto entrerà anche Tino tra un po', magari sta cenando, ci sentiamo, dai, dammi una decina di minuti, devo sistemare delle cose. Sì, fai quello che devi fare, non c'è problema, intanto sto facendo la roba anch'io qua. A dopo, dai. Magari sentiamo dopo. E prova radio. Antonio, ci sei? Antonio, ci sei? Hola. E allora? Antonello, ci sei? Non c'è, è caduto. No, si è gonfiato ed è esploso. Vero, c'era la mosca sopra. Sì, quelle mosche, ma quelle verdi. Sì, quelle... Quando va in putrefazione la cosa, no? Allora va bene. Gli ho dato il controllo radio e mi arriva 9 più 20 e va bene. Aspetta, però mi sembra di essere l'unico che vede segnali abbondanti, ma non ho capito il motivo. Tutte le radio proprio di quelle radio che non danno, che non ti danno il contentino, capito? Sì, anche tu che hai cambiato radio. Sì, va bene. Va bene, no, abbiamo lo... Dai, ho fatto bene l'amperaggio per la M, quindi ce la usiamo in M, stanotte, dai. Ce la usiamo in AM, no? Il Mac Game giusto e tutte queste cose qua, tutte le cianfrusaglie, vedi? Eia, va bene, no, volevo sentirlo, volevo vedere un pochino quanto stava arrivando qua, spero, adesso ti faccio scrivere al telefono. Ma sei morto, non ti risponde? Ma io lo faccio risuscitare. Falli scrivere al telefono a vedere. Va aspetta, Adesso ti chiamo sul 12. Allora, me l'ha mandato alle 20.37, sono le 21 e un'ora e passata me l'ha mandato, Ascolta, vuole già un vocale. Quando te l'ha mandato un'ora fa? Sì, un'ora e passata. Ma è entrato, guarda, ti posso dire, un quarto d'ora fa io, in radio, è entrato. Aspetta che vediamo se mi rispondo al telefono, adesso glielo faccio squillare, lo mando in. Vediamo se mi risponde. Devo rompere le scatole, aspetta. Io sono un che ti sto chiamando lo studio. Figa, sai che conta la palazzo? Arrivo, muoviti. Ciao. Hai capito? Ehi, vabbè, stavo facendo cosa? Oh, santa pazienza. Proprio vero, santa pazienza. Tanta pazienza, io sono disperato adesso da oggi e da domani per raffagliare Emma, qua a casa lo torce, ce l'ho con l'erba alta, prendo 20 litri di benzina e mezzi. Ma se io ti devo fare una cosa, tu non vuoi fare, ti armi di disarmante totale, la fai diventare tutta gialla quella cosa, e poi non cresce più. Però il fatto che in alcuni punti ha già sbocciato, è venuto il trattore la settimana scorsa, ho fatto tutto il petto di giù, però me ne voglio tenere una parte verde per giocare la bambina, per prendere, mangiarmi quando sono libero, starmene un po' fuori, un pezzo di cosa verde me la voglio tenere, però adesso devo prendere di nuovo il cespugliatore, poi quando cresce rasa erba per farla diventare un frattino, dai. Sono entrato. Hai visto, sono entrato. Va a segnare, vai. Uno, su due, su tre, se matto le gimbera. Vale, sì, con picchi positivi a 9.20. Già, va bene. Meglio di come uscivo quando ero occupato con Ginoso. Molto, molto meglio. Sta lavorando bene l'apparecchio. Hai visto? Vuol dire che... Ma cos'è? La Turbo o la 1? La Turbo è. Ma nuova l'hai comprata? No, non l'ho comprata nuova. E ce l'ho... E se vai, intorno ai 10 anni ce l'ho questa antenna, mi non ti credere. Vabbè, non... L'avevo pulita un paio di volte, la verità, d'estate, poi l'avevo lasciata perdere, dopodiché il palo, quando l'ho staccata era completamente rugginoso, capito, pieno di luce, allora ho dovuto usare la carta metrata, la torciata con la grossa e pulito il palo, poi al saettino, quando abbiamo provato il lineare, mi è rimasto il cavo che c'era all'interno sciolto completamente, figurati, infatti ho cambiato il PL, il cavo l'ho messo da 1.5, adesso è molto più grosso e ha agganciato direttamente la bobina a quella grande, capito? Ah, ma quando hai usato questo qua? Questo Galaxy? Ehi, quando ho usato il Galaxy, sì, bravo. Deve essere che ha fatto ritorno di stazionaria. Ti ricordi quando ho fatto quel difetto che schiacciavo porta e faceva ta ta ta ta ta ta ta? Deve essere stato quello, deve essere il... capito? Perché è brutto, poi ho mangiato la forchetta. La forchetta. Ma sai, se non avessi attaccato la moto qua... Non mi sarei accorto che il palo era in quelle condizioni, perché c'era la luce proprio sotto. E, però l'antenna, sono stato fortunato perché quando l'ho smontato non c'era niente, né zuzzico né nulla, era perfetto. L'unica cosa avevo lasciato solo il cavetto. Gli ho cambiato PL, poi anche nella parte di sotto, già detto, c'è quella parte metallo dove lanciare la diaria, anche quello era rovinoso, quindi l'ho pulita tutta bene e poi adesso c'è la vernice, hai capito? Sia all'interno sia solo all'esterno del piantone dove c'è PL, all'interno è lucida. Hai capito, Gavi? Hai visto, eh? A te quando ti sta arrivando? 9:20, l'ho detto già poco fa. Ha lo stesso segnale che arrivate. Già va bene, Antonio. Va bene, va bene. Tieni presente che questa radio, il 950, è un pochino più avaro di quella di Gavino, eh? Quindi potresti arrivare, faccio qualcosa in più, ma non me lo dà. Sì, va bene. Io ho 50 watt di portante, tondi tondi adesso, quando schiaccio sale a 9, poi c'ho picchi positivi fino a 9:20 quando parlo. Antonio, guarda un controllo a me di segnale, vedi degli occhiali, guarda un pochino, portante bianca e in modulazione, prova radio. Prova radio. 9:10, sì. Radio 5. Ragazzi, 10 dB si perdono a casa di Tino. Sei una, sì. C'era il limitatore che sta si abbassa leggermente, si abbassa, quindi sta lavorando bene i finali dell'apparecchio, sta assorbendo. Prima non ho subito neanche la metà, perché me ne usciva a superare anche 50, gira, andava in tilt, adesso invece li supera, ha voglia. Aspetta un attimino, oh, ci sono, sì? Sì, dice sì. Va bene, guarda, adesso usando la radio come la tua, capì, vabbè, tu vai quasi a toccare, caspita, prova, quasi 9:40, E come mi arrivi tu? Come mi arrivi tu? Tu fai 9:38-9:40, 9:38-9:40, però non ho capito questa differenza che c'è di 10 dB tra me e Antonello, cioè io gli do il 9:20 perché c'era pieno e a lui gli sta arrivando 9:10, magari, boh, non lo so. Passando davanti a casa tua, non lo so, gli stiamo rubando, mi sta prendendo 10 dB a me. Aspettatemi, sto usando pochi watt, io sto usando 13 watt, per dire la verità. Vai Antonè, che vediamo un pochino come si è messo tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Qua sei 9:25, aspetta un attimino che alziamo un pochino. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Ecco qua, ho alzato un pochino, ragazzi. Sì, sempre fai 9:38-9:40, sì. Non il segnale non cambia. Io quanto sono di date? Lo stesso, preciso, identico. Vedi che i conti tornano, i conti tornano. Non lo so questa cosa di magari a ricezione un po' da rivedere, però pensando anche diciamo, tu hai detto che ti arriva questa radio 9:25 e qua a me mi arriva 9:20, quindi è giusto. Tino, Antonè, Tino quanto ti arriva a te? Aspetta, con questa però, Antonè, con questa qua quanto sto arrivando da te? Guarda un po'. Quasi 9:20. Quasi 9:20, addirittura quasi, quel quasi lo devi togliere. E poi ti metti a pompare, non lo so più neppure. Mica ci arrivo 9:40 mentre un po'. La una volta l'ho visto uguale al tuo su Facebook, però c'aveva un altro nome quel lineare, lo sai, uguale, identico, però c'aveva un altro nome, nuovo, una cosa da mettere nel 250 euro in quel lineare lì, quindi tu mi lineare di Tino. Bello, dentro da nuovo fiammante lì. Non lo so, sono valutati bene questi cosi, sono valutati veramente bene, è che non c'è il tanto per spendere quei soldi lì, capi, tanto è, perché sennò un altro già mi sarebbe piaciuto averlo, ma magari anche differentemente da marca, ecco, però sempre quale uguale potente. Aspetta che lo provo a mettere in moto se parte. E che parte là, ti preoccupare. Io non è che posso tirare molto. Quando ero... pensavo però che mi abbia fatto una cosa del genere a me, a Mario Pazzullo, perché quando usavo BV 2001 io, quello transistor di Mario Manser, tirava fuori 800 di watt. Non è successo mai nulla con l'antenna. La Mantova 5, strano, evidentemente è filtrata acqua magari dall'attacco del bulloncino dove c'è la bobina di sopra, dei bulini magari il capo, e quindi soltanto magari si è riscaldato e si è potuto per quello, capito? Si è staccato da su, non da giù, hai capito? Giù era a PL, era agganciato, io quando ho staccato il PL, questo c'era il cavo, brutto, mi sa che avevo fatto anche la fotografia, se ti ricordi. Quindi si è staccato in pratica da dove c'è la bobina, quella grande. Aspetta un attimino, Antone, che guarda, mi segnala un attimino. Ehi, già va bene, dai. 25. È fine, dai. E fatti controllare lo Smith, vai. Ti sento così adesso, cosa vuoi ti dire io? Un conto per un palo senza massa, l'altro per avere la massa. Infatti c'è anche più RM. La sera quando ho provato... adesso mi viene in mente il nome. Quando ho provato con il 3009, in FM non lo sentivo quasi più, è un problema che va più. Antonè, mi dispiace per te, ma veramente, credimi, ora, cioè, tu non mi puoi dire che con 800 watt ti sto arrivando leggermente più alto di 50 watt. Ti sto dicendo che mi sta arrivando così, sei 25. Cosa vuoi dire, Gaia? Se ci vuoi credere, se ti butto la botta. No, tu hai qualche cosa, o si è scoppiato lo Smith, oppure hai qualche attenuatore inserito a tua insaputa. Mi sembra strano, eh? Un passaggio proprio appunto la sezione attenuatore inserito, ma mi va il strano. Prova a pulirti gli occhiali invece, aiuto, dai, guardalo bene questo Smith, che non... tu stai guardando, ma sei di fianco, guardalo frontale. Allora, adesso ho messo l'attenuatore, prova, attaccato e staccato, così ti dico la differenza che c'è. Forse che sia che regolato male questo apparecchio qui all'interno, niente di strano. Prova un po'. Antonè, mi sembra strano, guarda un po', ora, così è attaccato, E così è attaccato, guarda un pochino. Allora, il guadagno c'è da 3 a 9,5. Da 3 a 9,5, nulla è. Con l'attenatore inserito, da 3 a 9,5. Quindi la temperatura del peso Smitter è sballata. Ah, guardami, adesso ti metto, aspetta un attimino. Faccio la scala a 50, vediamo un attimino, provo a mettere solo il radio, Ora. Allora, scala 50, mi sta dando 15 watt, dai. 15 watt non lo abbassiamo. Eccolo qua, 15 watt e fa da 5 a quasi 18 watt. Queste sono i watt dell'apparato. Ho capito. Oggi compreso, oggi compreso. Bisogna che lo trovo, ma perché è vicino questa roba? Questa macchina qua io. In questi giorni. Vabbè, e poi se per caso non arrivano le 40 vuol dire che non è possibile calare, per forza. Oh, vediamo un attimino, scusa. Eccolo qua. Eccoti qua, ola, ola, ecco qua. No, ho cambiato nuovamente, Ce ne siamo accorti. Hai cambiato la radio anche, no? Ebbè, quella là era più forte. È quella da affossare, maledetta, da impiccare quella lì. Quella l'ha solo regolato il Mac ieri, hai visto? Hai smisto? Sì, quella da impiccare perché è maledetta, vabbè. Sì, però hai visto, ogni tanto gli do una pompata, si scalda, poi oggi c'è freddo, quindi. E poi dici che devi portare a casa mia in inverno. Adesso sto usando il saletta, come sto uscendo? Già va bene. Okay. Meglio del più 5, sì. Sì, migliore. Aspetta che sollevo il pezzo che fischi, Sì. Allora. Così, a 2,5 il microfono, se sollevo di più fischia. I macchinieri, la levetta del macchinieri sulla C. No, così è troppo amplificato, abbasso appena. Ecco fatto, ho abbassato ancora un po'. Non per altro, perché te raccogli tutta la mondezza che c'è in giro per casa tua, tipo rumoracci strane, tipo invece abbassa appena, ti fa una modulazione più bella, più limpida, e non ti raccoglie tutti quei rumori. Va bene, vai Gavi. Secondo me sta facendo troppo alto di potenza lui. Troppa potenza gli dai, Antonè. Tu devi prendere, devi essere moderato nelle cose. Gli eserenti troppo stai. Prova a dargli 20 watt a quella radio e farla uscire tranquillo. Senza. Io guarda, vado ad amperaggio, lo sai, ti raggio di 1685 volte, che io la regolo in AM in base all'ampere di assorbimento, come vedo che in AM va a dare picchi negativi in assorbimento, abbasso appena ramola picchi positivi, boh, finito, lasciala così, intanto non te li dà 50 watt, non te li dà, te li dà 30, 40, quindi portala a 40 watt massimi di picco, e vedrai che migliora. Ho capito. Mi sa che sono andato a alimentatore cinese, quindi aspetta che scendo di watt, così sono 10, vado un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha già migliorato molto, alzalo appena, portalo giusto, vabbè che tu hai uno strumento esterno, Antone? No, a lui gli viene male, perché quando lo tocca appena sale alle stelle, capito? Deve essere una cosa millimetrica, ma una volta che riesci a trovare un compromesso, non devi stare più a toccarlo, Antone, perché poi già lo sai come funziona, quando è freddo, magari è leggermente più basso, però quando raggiunge la temperatura, lavora bene. Ancora appena, ma poco, già lo sai che tu fai da troppo nulla, non per quello ti chiami Bombunio, Già lo so come funziona questo apparecchio, lo conosco da un po' di anni, si aspetta. Ci vuole, ecco, così. prendo. Vabbè, va benissimo, là. Tanto poi se la cosa va 50 fa un tre quarti d'ora. Perché una volta che entra il regime fa così. Hai anche più picchi positivi adesso. Sì, non so come la volanti, guarda, il settore era molto migliore, la verità di questo qua. Era parecchio, io l'ho avuto in 70 e c'era una bellezza di 15 e passa anni, forse 20 era, mi parlava cosa c'è 20 anni, e era un treno, era quella parecchio. Peccato ho voluto prenderlo per pagare la bolletta dell'Ene quando sono andato qui da Santolato, mi aveva dato 150 euro a pagare, non sapevo cosa dovevo fare. Capito? E quindi se no non l'avrei venduto, non sapevo come sicuro. Addirittura l'apparecchio, per non bruciarlo, ho pensato la manto qua turbo giù, ci ho messo 4 gradi di sotto, ci ho messo, perché la distanza dal muro era quasi un metro. Immagino che il tratto diventa la pipetta quella più lunga. E quindi l'avevo installata così, l'antenna. Secondo quanto salivo di matti, che si cominciava a fischiare, ho pensato, ma ha avuto 2 anni, quasi 2 anni questo apparecchio qui a casa sua, cosa vuol dire? Aveva messo, mi sembra, se aveva fatto un microfono lui, aveva messo un microfono e portava cosa va. Era l'unico apparecchio bello che ha avuto, in 70. Adesso stai facendo da 9.20 a 9.22. Vabbè, già non me la metto, va. Già non me la metto, sono dei treni questi apparecchi, sono vecchi ma sono dei treni. Una cosa che mi piacerebbe in seguito, no adesso, non ci sono neanche pensando adesso, voglio comprare uno di quegli apparecchi che hanno quelle che vendono su Alibaba, quelli belli, dei caretrici che hanno il frequenzimetro, poi il misuratore di campo, eccetera, eccetera, c'era tutto, capito? Lì poi c'era anche l'uscita per il monitor esterno, uno di quelli rami. Non lo so, non li ho visti, Antonio, non li ho visti. Riprenditilo che mi allontano un secondo. Andare, ma sto guardando un po' questo Sugo Logone, non so se siete mai andati, è una, come si dice, è una località dove c'è un fiume, un bel fiume, volevo andare a vedere lì cosa, com'è, per visitare, dai. Sugo Logone. Si chiama Sugo Logone, è un hotel, un fiume c'è, uno oliena. Già ho capito dove, ne ho sentito parlare, capito, dicono Caviglia, adesso non mi ricordo se l'ho visto su internet, in parte se l'ho visto. Non passano neanche molto i russi, la verità. Si sa anche bene di dire. È una sorgente, e poi da sorgente c'è il fiume, insomma, però devo vederlo dalle fotografie prima di andare, perché sennò non mi ispira. Siccome me le ha mandate un mio collega di lavoro, insomma, è piaciuto tanto, è andato a vederlo. Eccolo qua, foto e video, vediamo un attimino, qua sono gente in canoa, ma io in canoa non ci sto bene. In canoa, ti ho capito, in kayak. Sì, è in canoa, è una canoa. Poi ci sono delle piscine naturali, diciamo, dai, no, è bello il posto, è molto bello, solo che per gente che sa andare in canoa, io non so andare. Se vado io a fuoco, è tranquillo, e tu immaginati che io tanti anni fa sono, andavo con metà 27, quando c'erano i casotti a Pantamona, tu figurati, e l'altro giorno mi ci avevo trovato in barca, era di mattina presto, avevo dormito lì, mi ci avevo trovato in barca, c'era San Giovanni, poi altri Giampaolo Mandrà, che mi sembra che c'era, e Angelo Asso. Siamo partiti di mattina lì, io vieni con noi in barca, ma vieni con noi, cazzo, siamo partiti da, è incominciato poi il mare a agitarsi, cazzo, ma sai, l'unico asciutto ero io al centro, e io ho detto sbrigati a tuo maletto che me la sto facendo addosso, ho detto io qua, noi affoghiamo gli occhi, non bisogna più andare, quando mi dicevano, vuoi venire in barca, vai tu, vai. L'unico posto che andavo in barca era o a Porto del Sorghiero, dove c'è il porto, proprio un bastiano, quello che lavorava con me, a cambiare o gli apparecchi o l'ora, però dentro al porto, almeno ero più sicuro, se cadevo a bagno, almeno c'avevo il salvagente. Tu hai detto che già si paga poco, solo per pranzare 75 euro a persona, non è pochissimo. E vabbè, ma devi contare che lì mangi, si mangia bene, non mangi, mangi da buffato proprio, mangi porcetto, mangi agnello, poi c'è vino buono, non è che ti dà un vino latrici, quello tipo quello dello Spinno, e devi contare anche quello. Poi non lo so, poi ci sono i Manoletto, so sai che loro la cucina è totalmente diversa da quella che fanno nei ristoranti qua a Sassari, ho capito. La classica cucina novese, capito? C'è di tutto, c'è. Il piatto te lo hanno ben bello pieno, non come quello che non ti posso dire dove lavorava Giovanna, che quando ho visto. Come dava i piatti del ristorante c'erano tre pezzi di cosa dentro e te le faceva pagare mi sembra 12 euro, 13 euro, adesso non mi ricordo bene. E io con questo non mangio niente, gli ho detto, meglio la pizza la posso lavorare, infatti gli pigliavo le pizze lì a pizza e cosa. Sei rientrato, buonasera di nuovo. Ben rientrato. Antonello, ti volevo chiedere, ascolta un attimino, ma come gliel'ha fatto il filo che va dal PL alla cosa, alla bobina, con cavo elettrico normale? Sì, quello che monta è un cavo elettrico normale, da 1,5 glielo messo, solo quello originale era da 1, fine, non era neanche grosso, fidati. Sono riuscito a farcelo entrare giusto dentro, fino a su, piano piano. Quando è arrivato sopra gli ho fatto la piega e per mettere il bollore all'interno devi passare dalla parte opposta, in pratica il vettore è lo stilo e con la pinta di quella bicchi piatti ci devi mettere il bulloncino e faccio uscire fuori, poi ci devi mettere il bollore e la rondella, capito? Però il filo quello che ho lanciato la bobina l'ho saldato prima e dopo, capito? L'ho fatto uscire, l'ho pieno e l'ho saldato. Dopo che l'ho saldato ho messo la rondella, il bullone, ho preso e ho stretto. Lì va fuori e poi all'interno con la pizza a becchi, se no ci arrivi, è un casino. Ti faccio entrare subito, buonasera, in compagnia di Tino e di Antonello da Sassari. Dovevi, Antonio, mettere quel rame smaltato che tiene di più quel rame, perché alla fine sì, gli hai messo quello, il cavo elettrico da 1,5, però il rame dentro non è che ce ne sia più di tanto, dovevi mettere di quello smaltato e che andava meglio. E vabbè, quando la rifarai li metterai quello. Avanti Franco, dopo un lungo periodo di assenza, buonasera, vai. Io no, va bene, comunque buonasera, ben ascoltati. Niente, ciao anche Antonello. Oggi fa pompato, vabbè si chiama il pomponio, ed è per quello. Avanti a te. Anche saluto anche a Tino, dai, ben ascoltato. Avanti a te Antone. Capo, non è che sta comprando, la verità. Ho cambiato, ho dovuto cambiare tutto, cioè modificare l'antenna perché l'avevo sciolta, capito? Poi il palo era tutto rugginoso, gli ho messo i radiali che mancavano e l'ho rifatta a nuovo intanto che la mantova. L'ho ricostruita a nuovo la mantova a tubo, non è che sia così facile a fare quella lì, perché deve armarti di pazienza, capito? L'incasinanza della mantova 5 è ancora peggio perché c'è la bobina con la nera che in pratica parte dalla bobina grande e va in pratica a fare il cortocircuito fisico dove c'è la base di sopra. C'è proprio un forellino piccolino, ci devi filare il rame dentro senza smaltarlo nel nulla. Inizialmente graffiarla appena appena infilarci, poi gli metti al limite un appena appena lì smatto qui l'unghia in modo che non entri quello della mantova 5, invece la mantova a tubo è tutta un'altra cosa. E per fare il cavo rigido, quello è un casino, perché non puoi saldarlo nel PL, viene ben male. L'unica cosa è il cavo originale, solo che è un pochettino più grosso. È finito che devo salutare a Franco? Sì, caro, parla pure, parla. Ciao Fra, ben entrato. Gavino, ti devo deludere, Franco è entrato l'altra notte, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata, però vabbè, lui entra la domenica a chiamarci quando noi la domenica siamo un eterno riposo. No, eterno no, ma insomma ci riposiamo un po' di più la domenica perché le novane poi. Ledur, la vit, Ledur, vai Franco. Il Gavino ce l'ha sempre acceso, però mi ferri, sono sempre spente. Sono. Va bene, dai, niente di importante, non vi preoccupate. Cosa volevo dire? Guarda, ciao Antonè, quell'antenna la conosco bene, com'è? L'ho rifatta anche io, così l'ho rifatta. Diciamo che già non è difficile, è difficile è montarla, perché quando l'ho smontata poi a montarla era più difficile di tutto, perché quel pezzo di rame per controcircuità che va controcircuitata, che va dentro quell'affare lì, quel solco, e diciamo che è un po' maledetto a tenerlo. Ok, vediamo un po'. Gavino, riprendi. Ripreso. Ma ci vuole guerra a me smaltato, ci vuole, perché va meglio il filo elettrico, secondo me lascia il tempo che trova. Per fare quella voce ci vuole il rame smaltato, un po' grossetto, in modo che entra dentro e lo fai, anche perché rimane molto più rigido e lavori meglio. Allora l'avevo rifatta anche io, ce l'avevo anche io la mattina turbo, l'avevo rifatta pure io, gli avevo messo quel rame smaltato, era un'altra cosa, puoi mettergli la potenza di due. Vabbè, non è che si devono usare grandi potenze, però anche con l'andare del tempo era migliore. Vabbè, alla prossima lo fai, o altrimenti prendi Antonelli, facevi un bel, scusate, un altro bel sistema, d'accordo, come ce l'ho io, con la piastra e un bolloncino a vitare direttamente. Il programma match, già lo sai cos'è Antonio, la barra per accordare, e ti diventa un lavoro fatto bene veramente. Va bene, vai Tino, riprendi. Sì, lo so anche io, cosa non l'ho fatto io, però l'ho visto fare. Eh sì, è come sta dicendo Antonello, bisogna armarsi un pochino di pazienza, però già è fattibile la cosa. Oh, un attimino, torno subito. Aiuto Franco, vogliamo fare la settimana tra un mese. Ah, no, una settimana e mezzo almeno, vai. Ah, che lo fa vedere di me. Cosa è, dai? Oh, io comunque ho provato la Mercury, l'ho piazzata l'altro giorno più di della mandorla, dove ho tolto la X300 e ci ho messo la Mercury. Mi piazzo in capo, accendo il VHF, quello che ho io, il TPMR. Pompava meglio dell'X300. E che antenna è la Mercury, Antonio? No, non la conosco. Quella che mi hai dato tu, Andava il PRM. E ti sto dicendo, l'ho provata e stavo rompendo del male a cosa, della casa di cura che c'è lì in saggezza, capito? Scacciavo portante e si sfondevano subito. Tu immaginati che prima avevo installato la direttiva, solo che ha fatto il primo giorno che ha fatto questo, si è girata, palo e direttiva e anche la TV, perché pesa un bella direttiva quella che ho io, no? La 620. Allora poi ci ho messo la Mercury, e adesso che ciò che si esce. Però lo schiaccio portate, un demonio era. E tutto girato, esce meglio dell'X300. No, ma tu l'hai provato quel bazucchino con Antonello? No. Ma io ho fatto una prova al volo. Dove andiamo? Boh. Antonio, ma tu ce l'hai PRM? Sì, a canale 7. 446081.25. Aspetta che metto il mic per impostare il... Allora, aspetta un attimino. 4 4 6 0 8 1 2 5. Vediamo se mi senti, dai. Ok, va bene. Antone, prova a chiamarmi. Ti sto chiamando, ma evidentemente no. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 1, 2, 3. No, ma tu cosa sei? 4, 4, 6, 0, 8, 1, 2, 5? Sì, punto 25, sì. No, non arrivi. E neanche io penso, non lo so, io non so se ci arrivo. Io sono 446 08 125. No, non ti sento, aspetta che fare la prova, vabbè. Che c'è la mano, vediamo se mi senti, là. Voglio fare questa prova, bene. Se funziona la vecchia, deve funzionare anche la mano, ma lascia vedere. Come fai a essere 08 125 6 446 0 8 2 5? Sì, vuoi che ti faccia la fotografia? E come è possibile? Io ho 4 4 6 0 8, vabbè, a me non, ci fa 0 8 1 2 5. Io sono 4 4 6 0 8 7 5. Adesso ti metto 4 4 6 0 8 7 5, come si dice tu. Dove state andando? A vedere se Antonello ci sente. E dove? 0 8 7 5. 0 8 7 5. 0 8. No, Fra. Allora, ci sono delle radio che vanno anche io nell'IC 2725 e 0,80, mentre invece con questa qua è 0,875. Vediamo un attimino se Antonello c'è. Antonè, ci sei in questa frequenza? 4 4 6 0 8 7 5. C'è sceso Antonello. No, stava provando la mantova, va a vedere se riuscisse a arrivarla, ma adesso non può mai arrivare. Vabbè, questo, se non mi sbaglio, è il canale 7, se non sbaglio, è vero? Esatto. Ma di 27 stavate parlando? No, 446, Fra. Perché sono tre numeri solo. Ah, vabbè, per voi state contando anche, vabbè, i decimali. PMR siamo, Fra. Vediamo, Antonè, ti sei perso? No, non mi sono perso, aspetta, sto cambiando le... da BNC a PL, femmina, perché quelle... c'ho il BNC, forse l'altro, perché l'altra volta quando... siamo l'antenna, la X200 più da l'acqua, mi accendeva la, il coso, la, l'acqua dal capo mi usciva, dalla calza, fino a piede. Infatti dicevo che strano, ho detto che mi trovo tutto bagnato in terra. Adesso ho cambiato il DNC, è bianco, mi ha detto sulle, il coso, la mattina, il CVC. Perché se no non andiamo d'accordo, non riceve un cazzo. Allora. Vediamo se funziona, la mettiamo subito. Antonè, te la metti 446 0875. 446 0875. Sì. Agetta. Prova a chiamarmi. Continuo. Lo so, fra, io invece l'ho imposto, capito? Ah, tu lo imposti? No, io lo, a me me lo hai in automatico. Perché voi state usando una radio differente. Io questa qua gli devo impostare quello che voglio, posso impostargli anche 7, anziché 7.5, gli imposto 7.1, 7.2, 7.4, 7.10. Ho capito. Prova a chiamarmi, Antonè. No, non posso farlo io. Questo è impostato tramite computer, mi dà solo 446.081.25 e poi scendo di 068.75. Capito? No, non fa, non fa. Ce l'ho programmato così, questo non posso farlo a, a mano. Ok, allora aspetta un attimino. Fai così, 446, cos'hai tu 446? 068-75. 0? 68-75. Ok, dai, io ci sono, prova a chiamarmi. Sì, che ti sento, a voglia. Prova a schiacciare, così ti faccio sentire il fischio. Schiaccia la portante. Non ti sento più adesso. Arriva Antonè. Sì, arrivi, arrivi, bene anche. Antonè. Sì, allora, tu c'hai il Baofeng, sento che è il bip del Baofeng. Vai su WhatsApp e mettilo 6.25. Aspetta un attimino, fra, che sto facendo un'altra prova io. Antonè, guarda che ti richiamo con un altro microfono. Ehi, non lo posso fare la tastiera, fra. Perché è stato impostato via computer, capito? E quindi se vado su memoria per fare, per togliere la tastiera, mi si incasina tutto qua, hai capito? Non mi va di entrare. È programmato così. La programmazione faceva prima invece, potevo tranquillamente con la tastiera spostarmi dove volevo, bastava se schiacciavo wifi memoria e impostavo la frequenza che volevo, capito? Questo è tutto fatto così. Questo è dopo 5 plus. Sì, tutti sono impostati con computer. Antonè. Il mio è impostato col computer. E gli altri. Mentre sul menu. Chiamala. Fai cose per impostarlo, che li dà. Sì, ti sento molto meglio col microfono. Ecco, sono amplificato, capito? Va bene, dai, ritorno come prima. Ehi, capace, cioè, va bene così. Ok, già ho capito quale stai dicendo, se entro nel menu adesso poi mi casino tutto, mi tocca farmi dovuto programmare da corso. Hai capito? È un casino quello con la tastiera. Se sbagli poco a poco, ma se mi è successo l'altra volta, mi si è cancellato tutto. Ascolta Antonio, ma puoi andare 446 e 100? No, 446 e 100 no, però dovrebbe essere 446, 81, 93, 106, 446, 106, punto 25 mi pare. Bisogna mettermi la lente a contatto. No, non ci posso andare lì, non ci posso andare. Io datemi un numero, che devo mettere un numero qua io. 0875. cosa? Vero 875, se ho visto vedete voi, perché io non lo sai che io ho il rispetto, non ce l'ho il 6,5 metro, ti dico quanti si chiama. Vabbè, 446 0875, va bene? Io sono qua. Antonello, comunque mi hai sentito tu, hai visto? Quindi già va questo mazzocchino. Non mi hai dato il segnale però. Sì, già, il segnale c'era, era intorno al 4. Vabbè, la radio però ha migliorato molto quando ho messo il preamble, è vero? Sì, quando ho messo il microfono amplificato, aspettavo un treno era. Ecco, mi dici il bianco come del ciolo. Bianco lo pulisco bene. Mi scende l'acqua quella qualche lui e mi si è riempita l'antenna.